dentro una macchina, davanti una fabbrica, con la radio spenta mentre l'alba si avvicina. E speriamo non sia la polizia, non fermarti, andata via. Fare quella cosa non ti piace, ma dai, piace a me. Fingere un poco di gelosia, pur sapendo che sei mia. Farlo solo perché sai, mi piace tanto quanto a te. Giovani, coi vizi da adulti, una faccia da schiaffi, perché siamo giovani, con gli occhi imbevuti di rabbia, ma senza un perché. Siamo noi che scriviamo la storia, siamo noi ladri di pelle d'oca. Scopano dentro una macchina, due bicchieri in plastica, pieni di poesie e di frasi scelte a caso da un bel film. Fingere di avere una teoria sull'amore, le droghe, sui soldi che tanto non portano altro che bugie perfette. Noi che non vogliamo niente, su un sedile scosso dalle turbulenze, ricchi solo di esperienze. Non stare qui, pensarci se cazzo ti amo un po'. Testa su una tazza e una voglia di rivalsa, scriversi sopra la pelle, giovani per sempre.